Il cameriere Nicolò. Da qualche tempo vedo il cameriere Nicolò, che rimase molto tempo con mio nonno, ma lo vedo solo al primo piano girare per le camere. Sembra che cerchi qualche cosa, non potei ancora parlare con lui perché finora non ero mai stata sola. Durante la notte, da Pasqua in qua, devo passare sempre brutte notti. Sento che c'è qualche cosa molto vicina a me, ma non riesco a vedere. Però sento camminare, respirare, sempre vicino a me. Poi anche un mormorio o un rumore indefinibile, come battere alla porta. È una cosa molto più penosa che quando vedo qualche cosa. Una volta è incominciato alle 11 ed è durato fino alle 5. Impossibile dormire in queste condizioni. Mi sono alzata e mi sono seduta sul corridoio, ma il rumore mi seguì. Quando domandai, non potete farvi capire? Qualche cosa mi toccò sulle spalle, io fui molto spaventata.